È il canto del silenzio, che s'apre con questo elegiaco musicale preludio. Lugubre, accompagnami in un viaggio nelle tenebre, sottoterra nelle viscere del mio credere. Ho trovato una domanda a cui rispondere, che sono prigioniero in questo mondo dominato dal sé. Cos'è che c'è che non va nell'universo mentale, dove la mia posizione deve individuare, dove il potere del mio ritmo ti impedisce di far male. Immagina se tutto fosse in movimento e in un momento sono tornato bambino e sento la voce di mia madre che mi dice non allontanarti da casa e non giocare sulla strada. Prima di dormire lo sguardo fisso, ma com'è che non parla quel crocifisso? E ora ciò che subisco è dato da qualcosa che ricevo e non capisco. Visto del tuo battere le mani me ne infischio. Buonanotte suonatori, se chiudo gli occhi son dolori, se li apro li ricopro con le mani all'indomani. Vedo la mia arte classificata con un codice a barre. Per questo volo giù, volo giù, volo giù, nei meandri dell'oscurità. B-boy, la macabra ballata ti travolgerà. Baldo giovine, non te ne stare immobile di fronte, questo è un viaggio interminabile. E come fosse se per un appena entrato itinerario sconosciuto da Mercurio governato, detengo il mio primato di bruciato per aver osato oltrepassare il varco popolato di figure strane che non voglio più vedere. Fatti torturare, fatti catturare da una ninna nanna tribale. Arrivati già ai specchi lati dati folgorati dal sole. Qui tutto si muove, si ripete all'infinito senza mai tornare indietro per poter modificare come con la creta la mia immagine. Catturata in troppi floppy ormai dimenticati, ma diamo il benvenuto a questi nuovi arrivati b-boy. La macabra ballata ti travolgerà. Esempio di temperata, tranquilla eloquenza.